Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Vado al campus scuola con la classe. Ad Abbaglio San Salvatore, che si trova a Siena, e ci hanno dato un foglietto in cui ci sono delle cose che dobbiamo portare. Ora stavo leggendo e c'è scritto abbigliamento carino per eventuale festa serale, e poi c'è anche scritto le scarpe da ginnastica. La valigia per il campo scuola. Allora, non so se ci prenderanno i telefoni, non si sa. Eccoci qua ragazzi, noi siamo gli FF Partners e benvenuti in questo vlog. Oggi andremo al campo scuola. Esatto, vi faremo vedere il macello più totale. Esatto. La notte staremo svegli e ragazzi, quindi adesso sono le 7 di mattina, cioè 7 e mezza. Esatto. Sono stanchissimi, quindi porca troia. Poi c'è un occhio scassato, come sì, potete come vedere. Sì, come vedete, l'occhio scassato, e quindi finalmente ragazzi siamo nel pullman, che doveva arrivare un'ora prima. Però esatto, dai, dettagli. Sì, quella del campo scuola potrebbe essere una soluzione. Quanti questa mattina hanno smammato di casa i figli mandandoli col pullman al campo scuola? Vorrei saperlo. Chiamatemi, fatemi sapere. Sì, perché oggi voglio partecipare al dolore di tante famiglie italiane. Dolore reale, sincero, sconcerto, fatica, preoccupazione. Oggi che è il 9 giugno? Ecco, il 9 giugno. Quanti di voi vanno in ferie il 9 giugno? Bah, penso pochissimi di quelli che lavorano. In quante famiglie lavorano sia il padre e la madre? Ecco, in quante famiglie da questa mattina c'è il problema dove mettiamo i bambini? Sì, perché ieri è stato l'ultimo giorno di scuola, avete fatto la recita, avete fatto il rifreschino, avete fatto la colletta per il regalino alla maestra o alla professoressa, avete fatto il lavoretto orrendo fatto con le mollette da stendere e i bambini tutti felici ve l'hanno regalato. Sì, ma la pacchia è finita. Da oggi i professori, i maestri, non li vedete più, nemmeno i bidelli. Quel bel posto li scaricavate la mattina e o li scaricava qualcuno per voi e li andate a riprendere o all'ora di pranzo, i più fortunati anche pomeriggio. Adesso è chiuso, è sigillato, riaprirà a settembre. E cosa si fa? Beh, oggi a Roma c'è una giornata di pioggia torrenziale. Si rovescia la città. Ecco, dove saranno i bambini che fino a ieri andavano a scuola? Ma anche i ragazzetti, avete sentito? Quelli che fanno le medie, perché anche per loro c'è il problema. Non è che li puoi lasciare andare soli a zonzo per la città. I liceali, tanto, è un altro problema, ormai sono grandi. Beh, quando la scuola finisce, inizia l'incubo del dopo scuola. Dopo scuola nel senso quando finisce la scuola. Allora, il campo scuola è una bella soluzione. Le mamme e papà previdenti l'hanno prenotato già da gennaio e febbraio, ma forse addirittura dalla primavera precedente, quindi l'hanno accompagnata all'autobus e via fuori dalle scatole. Almeno una settimana e due hanno sfangato, poi il problema sarà a luglio, ma molti a luglio già possono prendere le ferie, poi si diluisce. Gli altri, ci sono i soggiorni estivi nelle città, i centri sportivi in orario mattutino, quando non ci vanno il grande afflusso di pubblico, prendono anche l'iniziativa di fare i campettini per i bambini. Sì, uno può mandarci lì i figli, ci sono delle brave persone abbastanza formate o anche per niente formate, comunque li puoi lasciare lì, fanno una nuotatina in piscina, fanno qualche giochetto, fanno merenda, insomma passa il tempo, si può fare un'altra giornata. Sì, ma costano cari. Da quello che mi risulta la base è 150 euro a settimana, la base, a Roma anche molto di più. Ecco, ce potrete mandare una settimana, due, ma quanto potete resistere a spendere 150 euro a settimana, famiglia media italiana, dico, per mandare i ragazzini a fare questa cosa qui? Poi non è che il problema finisce, comunque ve le ritrovate sul piatto, vi trovate il pomeriggio, le città saranno sempre più affocate o saranno invase da piogge torrenziali, dove li mettete i bambini? Beh, ci sono altre soluzioni, le parrocchie. Chi ha la parrocchia li lascia in parrocchia, ma mica tutti frequentano la parrocchia. Non è che si può presentare dal parco soltanto il 9 giugno e dire adesso i due bambini, c'è, no figliuola, e dove eri quando ci si doveva confessare, e dove eri quando c'era la messa, e dove eri quando c'era il ritiro spirituale, e dove eri quando dovevi dare un contributo alla parrocchia? No, adesso mi dispiace, ti li riporti a casa. E cosa si fa allora? Beh, ditemelo voi, io non so proprio che risposta dare. 800 24 00 24, a tra poco. Melog. Cronache meridiane. A abbiamo pranzato panino con salame. Esatto. E ora ragazzi famo la passeggiata, due coglioni così. Vabbè, bella. Quindi, allora ragazzi, finalmente siamo arrivati all'hotel. Esatto, dopo una lunga gira a Perugia. Esatto, che è stata molto bella. Esatto, abbiamo pure comprato un sacco di sassi e i baci perugina alla fabbrica. Esatto, e quindi raga, adesso ci vediamo dentro l'hotel, adesso esatto. Ci sistemeremo. Siamo arrivati nella camera. Esatto. E faremo un bordello boia, esatto. Perché raga, là ci abbiamo quante schifezze abbiamo. Esatto. Però raga, cioè, praticamente non staremo tutto, cioè ci staremo pochissimo in questa stanza perché faremo baldoria nelle altre camere. Esatto. Dai cazzo. Volevamo ringraziare per i 13 iscritti. Esatto, ma già l'abbiamo fatto una volta. Io ho messo tutti. Diranno qualche parolaccia, ma sono bambini fortunati, stando al campo scuola. Già oggi loro sanno comunque come non pesare alla loro famiglia. I genitori tireranno sospironi di sollievo. La sera grande pacchia, tutti a mangiare la pizza fra genitori. I bambini sono al campo scuola, arriverà qualche messaggino su WhatsApp, ma in fondo una settimana o due hanno sfangato. Ma così non è per tutti, non può essere per tutti. Voi direte ci sono i nonni, gli zii, sì, i nonni e gli zii. A parte che non è così per tutti, ma sì, laddove ci sono umarel disponibili, gli umarel da oggi sono i badanti dei bambini di famiglia, li potranno a spasso, li potranno al circolo anziani, potranno prendere il gelatino, a fare la passeggiatina, ma fra una settimana le passeggiatine possibili nel raggio d'azione di un anziano di famiglia sono finite, e dove li mettete? C'è una soluzione, ho appena avuto adesso una comunicazione da una nostra stagista di Bolzano, che sta da queste parti, che dice ma per me è una pacchia, dico io che sono laureata, mi sembra che abbia due lauree, specializzazioni, ha fatto il master al Sole 24 Ore, è un economista, insomma è una persona profondamente preparata e formata, lei con altri colleghi usciti allo stesso master a 15 euro l'ora vanno in un centro privato e tengono dei bambini di scuola elementare. Dice, beh, comunque ci andiamo 3-4 ore al giorno, a fine mese abbiamo fatto un bel gruzzoletto, altro che lavorare, stare a fare i passacarte nelle redazioni dei grandi giornali o delle grandi televisioni. Questo sì che ci permette di sopravvivere. Beh, c'è anche questo. 800240024. Come sfangate il problema che da oggi avete i bambini a casa, dato che le scuole sono chiuse? Felicita, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono nonna e ho nipotini che vivono vissuto in Svizzera, Francia, attualmente sono in America. Fortunata, allora, ce l'ha anche lontano. Quindi questo problema esiste dappertutto, però nessuno si piange addosso in Italia. E io mi sto piangendo addosso, Felicità. No, no, lei non si sta piangendo addosso. I genitori che vogliono che lo Stato, la scuola, chi per esso... Felicità, prima che lei si infiammi, se uno non ha fortuna di nascere in Svizzera o in America, la situazione è questa, questo è oggettivo. Oggettivo, però guardi che ad esempio in Francia. Sì, ma noi siamo in Italia. Felicia, siamo in Italia. Però i genitori non dicono cosa faccio, adesso hanno 10 giorni di vacanza al mese di novembre. Cosa faccio? Mi si mettono a piangere lo sta. La scuola organizza come si organizza. Ho capito, Felicia, lei ci sta facendo. Felicia, ho capito, stia calma. Lei ci sta dando un quadro di come favoloso nel resto del mondo. Noi poi siamo in un paese in questo momento che oggi le scuole sono chiuse e la gestione dei bambini è affidata alla famiglia che deve inventarsi, organizzarsi, darsi da fare in qualche maniera. Se padre e madre lavorano, oggi hanno un bambino, due bambini, tre bambini in età variabile dai 6 ai 12 anni che dopo se ne vanno per fatti loro e non sanno cosa farne, devono arrangiarsi. Questa è oggettivamente la situazione. Che sono i nipoti stanno in Svizzera, beati loro, mangeranno cioccolata e guarderanno le caprette che fanno ciao, ma da noi è diversa la cosa. Enrico. Buongiorno. Nicoletti, capisco il suo tono provocatorio. Lei è al di fuori di ogni... No, i miei sono cresciuti, io il problema padre, l'ho avuto il mio... Lei è un padre amorevolissimo. Ma no, non sono amorevole, sono un padre infame, ma i miei sono grandi ormai. Mi ricordo però il problema, Le dico però che anche il mio è grande, ne ho uno solo, ma rimpiango che non abbia 10 anni di meno. Qual è la soluzione secondo me? Innanzitutto, ripeto, la sua provocazione c'è chi la coglie e c'è chi non la coglie, però veramente ci fa quasi sentire i bambini come un cagnetto che ci abbiamo, che abbiamo preso per giocare e adesso che dobbiamo andare a fare le vacanze non sappiamo dove metterlo. No, ma scusi, no, dov'è la provocazione? Perché prego. Forse mi sono spiegato male io. Lei si metta nei panni di due genitori che lavorano, che la mattina devono comunque andare a lavorare, non c'hanno permessi, non c'hanno ferie. Da oggi hanno il bambino o i bambini dentro casa. cosa devono fare? Devono organizzare il tempo di questo bambino. Non è che non è la questione del cagnetto, è un figlio. L'hanno fatto, l'ha messo al mondo. Fino a ieri andava a scuola. Oggi cambia l'organizzazione radicalmente della famiglia. Questa naturale, è la situazione. Sono persone che sanno perfettamente che dal 9 di giugno avrebbero avuto questa questione da affrontare e risolvere da genitori. Quindi lei ha detto giustamente, c'è cioè chi ha prenotato il campo scuola, anche se lì si presuppone l'esistenza del campo scuola, è una possibilità economica, pagarlo, certo. Esatto, di pagarlo, ma lo hanno fatto mesi prima, se non un anno prima. Esiste un meccanismo meraviglioso che è chiamato solidarietà, ma non solidarietà della Caritas, intendo solidarietà nel senso di auto-organizzazione tra genitori, gestione del proprio tempo e gestione del tempo degli altri, unire dei bambini, creare delle attività, sono tutte cose che sarebbe stato opportuno, e credo che gli italiani siano anche abbastanza scaltri in questo, e credo che lo facciano anche in parecchi, non tutti oggi hanno il figlio da mettere fuori dal difficile bambino. Farlo nelle grosse città, mi permetta, o in certi quartieri particolari, perché farlo in un piccolo comune in cui ci si conosce di più, c'è del verde, c'è dell'uomo. Una città come Roma, in cui gli spazi verdi o sono i grandi parchi, dove comunque sono iperfrequentati, o sono gli spazi dei preti recintati e invalicabili, se non attraverso delle forme di pagamento, quando uno poi fa i corsi che organizzano loro, o sono spazi comunali che in realtà sono molto, molto difficili comunque ad accedere. In una città veramente c'è il problema, ma lo dico perché a me lo hanno riferito, ho sentito riferire persone. Capisco che il mondo è fatto di cicale e formiche, le formichine sono già organizzate, sono messe d'accordo tra mamme, hanno già un calendario quotidiano, oggi lo prende questo, oggi lo prende quell'altro, oggi andiamo in piscina, certo, però ci sono anche, ahimè, le persone che hanno avuto talmente tante rogne da pensare durante il giorno che non si sono organizzate e voglio sapere oggi come fanno, questo è il problema. Patrizia. Patrizia. Pronto? Eccola. Buongiorno. Niente, io volevo solo sottolineare comunque di sentire, per quanto riguarda la nostra realtà, io abito a Erba, per quanto riguarda il fatto che le parrocchie discriminino i bambini che non vanno al catechismo. Vabbè, facciamo catechismo, la difesa all'ufficio delle parrocchie, era una battuta, stia tranquilla. Vabbè, non si aprirà il cielo, non usciranno i fulmini a fulminare. No, per assolutamente, questo. Assolutamente, però una parola a difesa invece di una cosa che funziona, sì, perfettamente, ma Erba sì, Erba sì, ma a Roma, che accoglie qualsiasi bambino. Ma io sono convinto, Patrizia, che a Roma, Milano, Palermo, uno va a bussare alla parrocchia soltanto il 9 giugno, dice, impigliate i figli, diranno guardate siamo già pieni, tutti quelli che sono venuti durante l'anno l'hanno già messi qua. Mi assolutamente sembra... quelli che sono andati durante l'anno ci stanno e gli altri vengono accolti e ci si fa comunque in quattro per accoglierli. Vabbè, questo, se lei pensa che sia così, sono d'accordo, sono felice. Perché ogni parroco ha sempre portate bambini ai parroci, vi diranno sempre di sì. Va bene, può essere, non dico di no. Allora, quindi la soluzione in Italia ci sono andati tutti alle parrocchie? No, andate tutti alle parrocchie, ma dire che le parrocchie non accolgono chi non frequenta non è una verità. Mi spiega perché vi sentite così profondamente offesi, come se il Padre Eterno avesse bisogno di avvocati difensori. Perché non è vero, e allora uno se pensa che quello che si dice, sì, ma lei, primo, Patrizia, lei non sa quello che accade in tutte le parrocchie del mondo, scusi, no, l'Italia, certo, primo. Ma infatti io ho premesso, seconda cosa, chi difende? Ho detto una battuta, se andate dal parroco a portare il bambino il 9 giugno, vi dice, perché non sei venuto quando dovevi fare la messa, giustamente, la parrocchia va frequentata, va seguita, è una vita comunitaria, uno non certo, può andare lì, perché uno può andare a batter cassa soltanto quando c'ha bisogno, è brutto, mi sembra condivisibile. Però serve anche a questo. Sì, ma poi non credo che siano a numero infinito. Le persone che frequentano e saranno già organizzate saranno andate. Chi pensa all'ultimo momento è un po' problematico andare dal parroco e dire mi piglia anche mio figlio. C'ha spazio, lo prende, certo, sicuramente. Non dico di no, nessun parroco rinuncerà a un bambino, su questo siamo d'accordo. Però è chiaro che c'è qualche problema. Lei dice che la parrocchia è la soluzione per tutti. Sentiamo la pausa della borsa che diamo in questo momento in poi quanto avete trovato accoglienza nelle parrocchie. Se avete trovato accoglienza nelle parrocchie, può essere che sia una soluzione. Io sono totalmente laico e aperto a tutte le soluzioni. Se la soluzione è portarli in parrocchia, diremo oggi che tutti i bambini vanno portati in parrocchia e staranno bene, ci sarà chi si occupa di loro. A tra poco. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Melog. Cronache meridiane. .800 24 0024, ci rendiamo conto che è un problema, anche se molti ce l'hanno con me, perché sembra che questa mattina faccia le pulce a qualcuno, faccia il moralista o accusi i genitori di scaricare i figli come pacchi. Vi dico semplicemente che è un problema, probabilmente, che non vivete voi. Siete fortunati, avrete tante colf, tanti badanti, tanti nonni, tante zie, tanti parroci, tanti circoli estivi vicino casa. Ma io ho sentito il disagio viaggiando nella metropolitana, ascoltando qualche collega, tante famiglie: da domani come facciamo? Io lavoro, la moglie lavora, i nonni non ci sono, gli zii non ci sono, dove li sbatto i bambini? In una città come Roma, come Milano, come Bologna, dove li metto? Questo è un problema, secondo me. Dite che non è un problema, sono contento. Massimo, buongiorno. Buongiorno a tutti i suoi ospiti. Oggi sono solo, comunque va bene lo stesso. Io purtroppo non ho figli, né io né mia moglie, però abbiamo gestito per 3 anni un centro sportivo, e non un centro sportivo ma il circolo del centro sportivo, dove facevamo anche pranzo e cena. E prendevate i bambini in questo periodo? Prendevamo i bambini e venivano solo da mezzogiorno alle 2. Quelle 2 ore, e poi mi rifaccio anche una trasmissione che lei ha fatto tempo fa sul discorso che ci sono certi ristoranti che non vogliono i bimbi dentro, perché purtroppo un po' vuoi perché hanno 100 euro in più in tasca, un po' perché veramente alla fine i figli diventano un problema pesante da mantenere. Vado al punto, che succedeva in queste 2 ore? Cosa succedeva? Succedeva che erano là, bisognava fargli da mangiare. Massimo, vi pagavano per questo, però? Aspetti, tutti i bambini dei 5, 6, 7 anni, Massimo mi scappa la cacca, bisognava portarli in bagno, perché giustamente sono lì e io ero pagato per dargli da mangiare. Non per fare tutto il resto. Però scusate, no, per capire bene. Voi offrivate un servizio di refezione di bambini piccoli. 5 euro a testa. Ma se uno dice prendo i bambini piccoli, deve avere la formazione, il personale formato per gestirli. E il bambino piccolo, zero, niente. Cioè mi mettevano lì una squadra di 25-30 bambini e noi dovevamo diventare, ma per l'amor di Dio, questo io... Ma la colpa di chi gestiva il circolo non poteva fare questo servizio se non aveva personale adeguato. Signore mio, se lei facesse un giro dei circoli d'Italia. Ma siccome lo sono fatto il giro dei circoli e conosco la situazione, per questo faccio questa trasmissione. Ecco, lei ha messo il punto su una vicenda. Molti si attrezzano in maniera arronzata, non professionale e secondo me anche non legale, per dire li prendiamo noi. Ma se prendete dei bambini piccoli che hanno bisogno di una gestione di personale specializzato, è chiaro che un bambino piccolo può avere tutti i bisogni del mondo e tutte le necessità del mondo. Quindi lei mi dà un importante contributo, che finalmente, di là delle parole e delle teorie, si capisce che c'è un problema. Si crea un indotto, molte volte ai margini, secondo me, della legalità, di gestione di bambini in un periodo, giocando sul fatto c'è una grande necessità, che oggi, siccome lavorare bisogna lavorare, e chi è già un lavoro non è che se lo può lasciare scappare o può dire me ne sto a casa perché ho il figlio piccolo, si lasciano a chiunque, e questo chiunque molte volte diventano un'attività accessoria di circoli sportivi, di circoli sociali, via dicendo. Dice: in questo periodo prendiamo anche i bambini. Prendere bambini non significa comunque metterli soltanto a tavola, e lei me lo conferma. Antonio, buongiorno. Buongiorno, mi sente bene? Benissimo. Ok, grazie. Allora, non ho sentivo solo lei della telefonata di prima e non l'ascoltatore, per cui non so se quello che dico magari, però penso che sia cosa diversa. Io volevo raccontare semplicemente la mia una personale esperienza. Allora, io sono classe 1972 e avevo 10 anni, una decina d'anni negli anni 80, no? Per cui io sono originario, adesso chiamo da Monza, ma sono originario di un paesino sul Lago Maggiore, un paesino dove eravamo circa 1 migliaio di anime, ma la popolazione d'estate possiamo dire che raddoppiasse. E si creavano delle situazioni, chiaramente il tessuto sociale probabilmente era un po' diverso da quello attuale, però sostanzialmente c'erano persone che venivano in villeggiatura dalle zone che, ahimè, adesso io sono costretto a frequentare per lavoro, E queste persone praticamente si integravano completamente nel tessuto sociale, i bambini ovviamente, che venivano tipicamente con i nonni, occupavano case che non hanno il comfort e le comodità che forse adesso noi pretendiamo che i nostri figli abbiano. Comunque facevano magari tutta l'estate, a parte il mese d'agosto in cui se ne andavano al mare con i propri genitori che nel frattempo andavano in ferie, e si creava una situazione di centro estivo sostanzialmente autogestito da ragazzi, bambini di età diverse, che sostanzialmente stavano fuori di casa tutto il giorno, tornando solo a casa a mangiare chi arriva. Sì, è una soluzione, diciamo, forse di qualche anno fa, ma ancora adesso non so bene, qualcuno... Ci sono il paesino tipico dove non necessariamente ci sono grandi attrattive turistiche, però diciamo c'è l'aria buona, si dice, c'è fresco, affittano case che non sono probabilmente molte volte case attrezzate per residenza estiva, ma si affittano case un po' alla buona e si mandano i nonni con i nipotini. I nonni alla fine si mettono assieme, giocano a carte, i nipotini scorrazzano per il paese dove ci sono probabilmente meno pericoli. Questa è una soluzione sicuramente. Liliana. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Gianluca, ascolta, io sono d'accordo per tutte le cose che hai detto, va benissimo, tutto quello che hai detto. Sì, ma non è che ho fatto sentenze. Sono una vecchia insegnante, no, veramente, racconto. Hai detto cose giuste, dimmi. No, dico, non è che ho un parere, mi pongo un problema, sì, che sta succedendo. No, è vero, è una constatazione, è vero, perché infatti io adesso sono sulla Pontina e vado a prendere la nipotina che purtroppo la scuola è chiusa oggi. Vedi, i genitori non sanno come gestirla, è logico. I genitori non sanno dove mettere perché lavorano tutte e due. Allora, chiaro. La scuola, Gianluca, sempre aperta, benissimo. Ci sono le lauree brevi, gli insegnanti che vogliono diventare maestri d'infanzia, scuola media, devono fare il tirocinio, non li puoi buttare nella gabbia dei leoni così appena laureate. Allora è l'occasione giusta, secondo me, aperta la scuola e questi insegnanti che dovranno essere insegnanti, hanno già la laurea, e si guardano i bambini. Vedi Liliana, tu stai dicendo... tirocinio. Sì, Liliana, no, stai dicendo una cosa saggia. Stamattina c'era il ministro Giannini da Giovanni Minoli, hanno parlato di tante cose, ma tra le tante è anche nell'agenda del Ministero di pensare di utilizzare meglio le scuole quando sono chiuse. Le scuole tutti i pomeriggi sono chiuse, l'estate sono chiuse, e nelle scuole ci sono palestre, ci sono aule, ci sono strutture, c'è materiale didattico, piuttosto che mandarli, come l'ascoltatore prima diceva, nel circoletto di quartiere dove non c'è nemmeno persone capaci di portarli al bagno, forse la scuola potrebbe organizzarsi. Tutto questo naturalmente ha un costo, tutto questo impatta poi con l'organizzazione degli insegnanti, con i sindacati, con i lavori e tutto. Però è vero, io per altri miei problemi personali spesso vedo le città piene di spazi vuoti inutilizzati, che in questo caso ci fosse una volontà di organizzarsi, potrebbero essere spazi dedicati nei tempi giusti, nella maniera giusta, con le persone giuste, al tempo felice dei bambini anche in questo periodo che è molto difficile farli contenti. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, intanto grazie per lo spazio. Lei state dicendo delle cose che erano quelle che volevo dire io. Io sono un genitore e sono anche un docente. Io lancio una proposta e cerco di essere molto breve in questo. Come dicevate voi, ci sono spazi pubblici che allo Stato costano, quindi spazi che già noi paghiamo come cittadini, che potrebbero essere utilizzati dagli enti pubblici. Vi dico anche che ci sono migliaia di docenti che oggi non sono di ruolo e che dal 30 giugno, comunque anche prima, sono a spasso e in cerca di magari potenziali posti di lavoro. Io credo che le organizzazioni pubbliche potrebbero, in accordo col Ministero dell'Istruzione, cercare di risolvere un problema che è un problema vero, quello di avere dei figli che dal 9 di giugno a volte non si sa dove mettere, e lo si potrebbe fare, non dico a gratis, come diciamo dalle nostre parti, perché credo che sia molto difficile, però con costi molto contenuti, perché raggruppare dei ragazzi e chiedere delle quote minime, sapendo che non devi pagare né riscaldamento né altri costi di strutture pubbliche che già esistono, credo che potrebbe essere un ottimo sistema per risolvere un problema di tanti tanti genitori. Tutto qui. No, Giuseppe, mi fa piacere che alla fine, dopo quasi mezz'ora di trasmissione, viene fuori che il problema esiste, se no sembra che me l'ero inventato io. Vi dico, non è un problema che ho avuto in passato, il problema c'è. L'idea di cui vorrei riuscire a discutere serenamente nell'ultima parte della trasmissione è benissimo. Da una parte gli spazi ci sono, dall'altra parte persone adeguate e formate a gestire bambini ci sono. D'altra parte sono dei genitori che comunque hanno dei costi, delle spese, che mandarli nel circolo sportivo costa, trovare una persona all'ultimo momento che gestisce costa, anche il tempo dei nonni in sé, se sono generosissimi comunque, è un costo sociale. Perché non si riesce in tempo, visto che è il momento delle organizzazioni, delle start-up, delle grandi idee, delle app, dei giovani che sono vulcanici, qualcuno non organizza una sorta di trip advisor delle disponibilità per far passare un tempo sereno, felice e anche proficuo ai bambini in questo periodo? 800240024, tra un istante. Melog, cronache meridiane. (800) 24 0024, datemi soluzioni concrete, pratiche, idee innovative, idee geniali, idee folli su come organizzare il tempo dei bambini quando finisce la scuola, facendo contenti i genitori, usando spazi che in realtà sono inutilizzati, dando lavoro magari a persone che avrebbero gli strumenti pedagogici, professionali, per far fare qualcosa ai bambini invece che tenerli semplicemente a sguazzare in piscina, e che magari sarebbero contenti di rendersi utili, di lavorare in questo periodo. Abbiamo parlato di un gruppo di stagiste di Bolzano, formate, plurilaureate, masterizzate, tutte, che però vanno a tenere a 15 euro all'ora i bambini nei circoli privati. Magari sono persone che potrebbero farlo meglio e in maniera probabilmente più attinente alla loro vocazione professionale. Giusy, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Guardi, io la chiamavo proprio perché mi vedo in questa situazione. Io ho 37 anni, ho due bambini, un bambino di 2 anni e una di 6. Io e mio marito lavoriamo tutto il giorno e mi diventa davvero problematico gestire i bambini. Lo faccio con amore, con interesse ovviamente, perché sono i miei figli, però io già da marzo mi devo muovere a capire dove a giugno e a luglio devo collocare i bambini. Non ho i nonni vicino perché io sono siciliana e vivo a Legnano da anni, e quindi per me diventa davvero problematico. Tra l'altro mio figlio, che frequenta l'asilo nido comunale, l'asilo rimane aperto fino a luglio, per cui sono coperta. La grande invece di 6 anni va alla scuola materna pubblica, però il 30 di giugno termina e a luglio il centro estivo ha dei prezzi folli. Mi fa un esempio, mi dà un prezziario, perché io ho detto sì, minimo 150 sì, settimana minimo. Bravissimo, esatto, quindi io in un mese spenderei circa 450 euro, perché va poi in base alla fascia dell'ISE, praticamente del reddito della famiglia, più 300 euro indicativamente, che è la retta di mio figlio per luglio, quindi sono circa 800 euro. Mio marito è un operaio, è tantissimo, guardi, mio marito è un operaio, al di là del fatto che poi uno ha il mutuo o meno, perché sono scelte che poi uno decide di fare, ma per me davvero diventa problematico gestire i bambini. Non avendo, e cosa fanno? Vicini, e questi centri estivi cosa fanno? Vediamola. Allora, in questi centri estivi mia figlia l'ha sempre frequentato, viene innanzitutto gestita da personale esterno, non sono le sue maestre, che lei conosce tutto l'anno, per cui non la conoscono neanche, non sa se è una bambina capricciosa piuttosto che educata, piuttosto che non so, che ha sempre qualche paturnia. E guardi, Giusy, non sollevo nemmeno il problema, se no sembra sempre voglio tirare acqua al mulino, dei bambini che hanno un problema di handicap, quelli veramente non si sa dove metterli, perché lì, vede, certo, già è difficile una bambina che sta bene, che magari può avere qualche momento che si arrabbia, oppure va gestita, perché? Perché la maestra la conosce, altri no. Lei pensa un bambino che è un bambino autistico, un bambino sulla sedia a rotelle, un bambino cieco. Pensi in questo momento il dramma della famiglia, non sanno veramente dove metterlo, non sanno dove andare se hanno il suo stesso problema. Sul fatto che un bambino abbia un handicap sono pienamente d'accordo, e ha bisogno sicuramente di attenzione, personale preparato in maniera diversa. Però le dico che a me va benissimo il fatto che sia gestito da maestre esterne che non conosce, alla fine i bambini devono riuscire un po' a rapportarsi con altre persone. Il problema è che la retta è davvero proprio, è iperbolica, è iperbolica, non si può lavorare in questo modo. E poi comunque è vero, io ho sentito un po', perché sono uscita adesso dal lavoro e ho sentito un po' la discussione, è vero che l'oratorio è presente, ma io ad esempio sono una che non frequenta l'oratorio. E la prendono, e la prenderebbero soltanto? Non la prenderebbero, perché io ho parlato direttamente con delle educatrici che sono lì, mi ha detto: guarda, noi non conosciamo neanche tua figlia, non so neanche dove abiti, vediamo. Per cui io non mi posso ritrovare a giugno lavorando fino al primo di agosto senza sapere dove va mia figlia, con chi è, come viene gestita. Io guardi, consiglio solo una cosa, sicuramente ce l'avranno a morte le insegnanti, mia sorella è una di quelle insegnanti, non capisco perché le insegnanti debbano fare le ferie che vadano dal 9 di giugno al 5 di settembre. E questo è un altro problema adesso. Quando io, che sono da un privato, devo fare 3 settimane, 2 settimane per legge consecutive di ferie, per prendere un giorno di ferie per me diventa problematico. Non capisco perché le insegnanti che sono educatrici non possono stare a scuola fino al 30 di luglio come sono io al lavoro. Questa roba qua davvero mi risulta davvero dato per scontato che così è, si aprirebbe un altro problema, dato che il dato di fatto che noi comunque dal 9 giugno ce li abbiamo da gestire. Lei ha detto le cose molto sagge, anche risposto alla signora di Legnano, mi pare che era inviperita. Non è vero che li prendono le parrocchie se tu non ci vai, ma sì, ma è logico, ma posso anche capirle, è una vita comunitaria a cui si contribuisce. Dice: nemmeno conosco il bambino, ma non avranno mai visto né bambino né famiglia, potrebbero gli altri, prendi uno che non è mai venuto in parrocchia, non ci ha aiutato mai, oggi sta qua. È un problema anche quello, non sono enti pubblici le parrocchie, fanno un po' quello che vogliono, è buon per loro, non è un problema. Michele, buongiorno. Sì. Buongiorno, se devi tenere i bambini di 2 genitori che devono lavorare, devi cacciare i soldi. È chiaro, questo devi abbiamo capito. Devi pagare. Ci sono gli spazi, le scuole lo mettono a disposizione, le parrocchie lo mettono a disposizione, gli asili privati eccetera, cioè, li mettono a disposizione, devono integrare. Lo Stato può iniziare a continuare a dire fare buona scuola, ci sono modi per fare la buona scuola, anche questa qui, prendersi cura delle persone che hanno difficoltà. Bisogna tirare fuori i soldi, è inutile la signora del tirocinio, ma vuole stare ancora a fare sfruttamento per ragazzi che hanno 30-35 anni, che sono super specializzati, che devono fare gratis questi lavori. Ma no, penso che dicesse, lei pensava grazie, ha detto, non ho capito bene, la signora gratis, beh gratis è un assurdo. Guardi, io le dico, la stagista di Bolzano, di cui parlavo prima come esempio, che conosco, oltre ad avere 2 lauree, ha anche una specializzazione, anche masterizzata, va a 15 euro all'ora a tenere i bambini, se pagano lei, tanto più dovrebbero pagare un insegnante tirocinante, mi pare. Piera, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Piera, chiamo da Bergamo. Io volevo dire che qua a Bergamo, in effetti, nelle scuole elementari, il comune organizza proprio dei centri ricreativi estivi con delle cooperative a prezzi abbastanza concorrenziali, insomma, per cui è alternativo a quello delle parrocchie. Oltretutto il comitato genitori delle scuole generalmente già ad aprile manda le possibilità che ci sono dei vari centri ricreativi, tra cui anche alcuni che sono organizzati all'interno di ludoteche comunali. E quindi diciamo che un certo servizio c'è. È un comune organizzato il suo, Sì, sicuramente. Però quante anime ci sono nel suo comune? Quante persone, diciamo, possono usufruire di questo servizio? Beh, ma sono nelle varie scuole, per cui nei vari quartieri, ogni scuola, diciamo, c'è la scuola elementare. Ma io sono convinto che ci siano delle amministrazioni. Per cui può raggiungere un certo numero di... Certo, sicuramente è indicato per bambini che fanno... Ecco, quant'è, diciamo, la quota di integrazione che devono pagare le famiglie? Ne conoscenza, solo per capire... Purtroppo devo dire no, perché io ormai ho figli già alle medie, per cui non l'ho... Mi è arrivata la cosa dal comitato dei genitori, però di verità, siccome appunto i miei figli sono tutti alle medie, per cui non ho guardato. Comunque, è logico, ci sono delle amministrazioni meglio organizzate, ci sono dei centri dove sono dei centri favolosi, dove già sanno i genitori dove mandare il bambino dal 9 giugno in poi, con una piccola quota integrativa. Lo so, non voglio dire che è tutto un disastro, però esiste un problema oggettivo in una gran parte di famiglie e di genitori che lavorano, che da oggi non sa dove mandare i figli. Mary parlava, dice, i governi del nord danno molto più di quanto danno quelli del sud. Beh, fortunato chi nasce al nord, che devo dire. Il problema rimane per tanti che hanno ascoltato, hanno sentito, non hanno avuto manco il tempo di telefonare perché dovevano lavorare, occuparsi dei figli. È chiaro e lampante che questo sia realmente un problema. Oggi è il giorno più difficile dell'anno per chi ha dei figli in età scolare. Alla prossima!